Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Le proposte di Mario Monti per evitare oscillazioni eccessive dello spread, il giuramento del nuovo governo greco, la pressione sui mercati europei in attesa del vertice decisivo di Bruxelles, la possibile intesa sulla Tobin Tax, sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa puntata di Economia in Europa. Martedì 19 giugno, dal vertice del G20 in Messico, il presidente del Consiglio Mario Monti ha lanciato un allarme. I prossimi 10 giorni, ha detto, sono decisivi per il futuro dell'euro. Il premier ha anche proposto l'acquisto diretto di titoli di Stato da parte del Fondo Salva Stati e FSF per evitare eccessive oscillazioni dello spread. Uno scudo anti-spread è una sorta di aspirina che attenua il dolore ma non risolve la causa. È un paracetamolo finanziario che attenua il malessere ma non risolve le cause strutturali, ha commentato così il portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn alla proposta italiana di usare il fondo salva stati per evitare oscillazioni eccessive del differenziale di rendimento sui titoli di Stato. Sentiamo il commento da Bruxelles di Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore. Sicuramente, diciamo, l'accoglienza non è stata dei più cordiali, però io devo dire anche che forse le parole di Monti sono state un po' interpretate come una fuga in avanti, e lo dico perché ieri era qui il ministro Moavero, il quale aveva parlato di questo meccanismo dicendo che eravamo ancora alle prime battute, che era ancora allo studio in Italia e che non era ancora stato, diciamo, sviscerato a dovere con i partner. Ora, in realtà diciamo che è un po' un balletto generale su questa vicenda, nel senso che sicuramente il Fondo Salva Stati dall'ottobre-novembre scorso ha la possibilità di intervenire sul mercato secondario con l'acquisto di titoli, e quindi diciamo ci sono delle possibilità per ammortizzare diciamo i colpi che derivano ai singoli stati membri quando gli spread cominciano a strappare come sono strappati negli ultimi giorni. Il problema è che non c'è ancora un accordo e quindi di questo argomento bisognerà discutere al vertice e quindi la Commissione può far tutto fuorché, diciamo, fare dei commenti di tipo positivo. Detto questo, la strada sarà sicuramente in salita, perché naturalmente coagulare un accordo su questi temi, e lo conosciamo, lo sappiamo dall'inizio della crisi dell'euro, non è affatto facile. Però io credo che questa volta ci siano in effetti le condizioni per cercare di trovare qualche modo nuovo per mettere un freno a questa speculazione che altrimenti proprio sta bruciando ogni passo che fanno i paesi dell'euro. Abbiamo visto l'Irlanda, obtorto collo, ha detto sì al referendum sulla ratifica del fiscal compact, la Grecia ha detto sì all'euro, la Spagna presenterà domanda per questi aiuti, ma ogni volta non basta mai, no? Quindi ci vuole sicuramente un meccanismo che indichi ai mercati che a questo punto si fa sul serio, che a questo punto si mette un freno diciamo al collo della speculazione, e sicuramente questo meccanismo anti-spread potrebbe essere uno di quelli, però diciamo che è prematuro darlo per fatto. Mercoledì 20 giugno, Antonis Samaras, leader del partito Nuova Democrazia che ha vinto le elezioni domenica 17, ha giurato davanti al presidente della Repubblica Papoulias e alla presenza, come tradizione, dell'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, l'Eronimos. Sentiamo le prime notizie arrivate mercoledì dalla voce di Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Samaras ha già giurato, appunto, davanti al capo della Chiesa ortodossa, come è consuetudine, e davanti appunto al presidente Papoulias. C'è stato un cambiamento nei tempi ed è stato appunto deciso di dare subito il via al giuramento 3 ore in anticipo rispetto all'agenda che si era prima data il governo. A questo punto stiamo aspettando la lista dei ministri, perché questa invece potrebbe arrivare domani.